porta in macchina delle donne sono dentro. Segnale 9, radio 5, vai benissimo, di lusso. Pronuncia, ecco, Micilia. È chiuso, l'ho chiuso, aspetta. Guarda, non so se sta funzionando. Sì, che funziona. Le chiudo. Non lo so come lo posso memorizzare, quando così sta aperto, appena aperto. Facciamo così che va bene. Cioè, per me, però, va benissimo. Sta mettendo questo studio, boh, schifoso, non c'è altro. A me piace un po' grosso. po' pesantucci. La farina di ceci e a trulli a manetta. Mamma mia, non entri in bagno come si vuole i pompieri di ruota. Resistenza da 10 ore vuole, vero? Ma boh, a attaccato una lucettina sua e niente, gatto, aperto 2000 luci, provando, riprovando, non andati a bere. Ma lo sai quant'era la luce? A 24. Ma sai, me, se no, siamo a ben 20, qualche roba della scaldavoglio ce l'ho, ma è verde. È verde la plastica. E tu quando la tua della plastica, la parapalia è bianca, mica verde. Ma sono queste qua, non le trattore, sono pietratura, sono le piccole piccole. E vabbè, per un vero lungo. Ma infatti il qua a Rugugio era qua. Però la vedevamo che funzionava. Ma dopo ce l'ho aperto per pulirlo un po' dentro. Però l'ho ripiattato, non poteva più. Tanto come la lasciarlo così. Non è sporco, ma si vede, era un po' di polvere dentro. Io c'ha la lametta, c'ha bene. Pulito. Siccome stavo passando anche il pennello, no? Pennellino. Forse l'ho spostato, quello adesso. Ah, via via Claudio, ci sei Claudio? Io. Questa lampadina è trovata, gli hai? Questa lampadina è trovata? Sì, se mi porta l'elettricista. Ne abbiamo attaccato da un po' meglio 2,20 di numeri. E ce li ha in macchina lui, adesso non è di me la faccio vedere. Sei sicuro che ha 2,20, Claudio? Ma è strano. No, no, 2,20, 2,20, vai tranquillo. Sono lampadine a 2,20. Sono appena 2,20 quella del 35. Allora io ho comprato, vabbè, ma guarda, va bene anche la luce del lampadina che ho messo nello smitter, no? Va bene anche quella, però ero accattolato dalla corrente, io scusa, per fare quel lavoro che ho fatto qua. Sa che baracchino, la 13,8 va bene lo stesso. No. Dipende dalla trasformatore. Capito, la 12 voce, mentre quella lì ma ci ghiaccia direttamente i contatti a 2,20, arriva l'alimentazione diretta a 2,20 per la farina, dura un bel quello buco, so che sono bruciate. Sicuro che sono a 2,20? L'ho provato io, provo se a 12 voce, a filettatura, non è acceso l'alimentatore, sono bruciate, 2,20, le ho messe io quella, sono a 2,20. 2,20, vai tranquillo. Devo vedere se c'è qualcosa qua a casa, non so. Devo prendere di scorta. Ma se prende anche lì la corrente a 12, quella va bene lo stesso. La collega, anche due letti vanno bene, quelle di giù che i bambini, anche quelli vanno bene. Li collega all'accensione, che arriva a coso, a 13,8, vanno bene lo stesso. Quando si accende accendono anche le luci, quando lo spegne si spengono. Due di quelle vanno bene le luci. Vediamo, ma stavo pensando, perché al baracchino gli ho messo il LED. Ma comunque di quelli ne ho, Ne ho, cioè, una pila. Li faccio lo stesso lavoro. Metto la resistenza. E se no, c'è tanto così è brutto. Un peccato. Ah, quindi mura, solo mi ha trovato, sto lavorando, se il tempo non lo permette, ci salgo da Fusaro e gli dico, tanto vuol dire la Puglia, vedi? Mi ha detto che ho messo una di rimorchio di camion, di quei LED, quelli a siluro blu. No, vabbè, bianchi li rimetto io. Oppure bianchi oppure rossi, no, non arriva, blu. Vanno bene qualsiasi tipo di colore, dipende come lo vuoi tu. Io l'ho messo blu perché ce l'avevo blu, hai capito? Però quando io spengo il lineare, poi cosa succede? Che la luce non è che si spegne subito, no? Piano piano si, come si dice? Si spegne piano piano. Ciao Bozza, ma se me l'ho ricordato Massimilia. Io due le dice io, due, tre ne ho. Resistenza devo da buttare, adesso faccio le prove, prendo un alimentatore. C'è un alimentatore da vabbè grosso e faccio le prove. Se ho fortuna che riesco a farne accedere qualcuna, gliela piazzo. Anche col tester, se c'è il tester, quello con la batteria a 9 volte, riesce a farla accendere anche con quello. Leggero, ma accendo lo stesso. Non hai capito cosa voglio fare io? Come voglio fare io è ho tante resistenze, però non so qual è quella giusta. Io le provo, tanto questi LED non è che mi interessano. Se riesco a farla vedo io, fai il lavoro giusto, perfetto, come era prima, capito? Allora devi fare il lavoro fatto bene. Fatto bene vuol dire prendere l'alimentazione a 2,20 e da 2,20 a 12 che c'è lì il trasformatore, che porti la linea nuova, con le due porta l'acqua da giusti e gli attacchi con la morsettiera alla dietro lo strumentino. E se no l'ho fatto bene, la cosa non te lo metti in culo. Non ci devo più la lampadina, non so come ha fatto l'alimentatore, ma colpi non li ha preso. tantissimi controlli, però già si sente che sciocca un po' la radio. E per due uomini ci porta a pesce, non va bene. Positivo, avanti già. Poi siamo attenti. Falta due. Ma bestia la radio, tu verrà più forte, no bestia. Va sempre bene a 4:30, va sempre bene. Va sempre bene, vabbè, io volevo dire comunque, ma non c'è nulla. Ma 4:40 che c'è Franco è quello che c'avevo io, quindi. State tranquilli. Ma dove? Ma le volte le palle lì, basta, ne ho avuto anche troppi. Ne ho avuto anche troppi, volevo cambiare. E il 4:30 non lo stavo più già, me l'ha sempre spento e basta, adesso mi attacco 4:30, ho la linea completa, la faccio andare. E poi mi è capitata questa occasione. Lo c'entro io, l'ho ritirato come questo 4:30, se lo vedo è uno spettacolo. 200? Via. Infatti ti ho chiesto quello. Ma c'è il bip qua, vedi? Io sono in sono in macchina, fermo qua alla piazzetta. Massimiliano, occhio, accende, e con la resistenza. E allora va bene. Già, non lo so andare, ma sono preparo. Positivo, dopo ti apri l'alimentatore, ti prendi direttamente la corrente a 13,8, va bene lo stesso. La collega al pulsantino, riaccende, capito? Così quando accende ti si accendono le luci e lei te la. Infatti. Te l'ho fatto io nell'alimentatore che ho preso a Fusaro, c'erano gli strumenti ma non erano illuminati, te l'ho fatto io. Ho preso la corrente proprio dove c'era l'uscita per l'attacco del baracchino, dall'interno, e ho fatto così lo stesso. Legato all'accensione però. Da dentro. I fili che andavano all'accensione l'ho collegato lì, tutto fatto bene, tutto fascettato e tutto fatto a regola d'arte. E quando tu accendi si accendono anche i LED, giusto? Sì, nelle check LED però le avevo messo le lampadine, invece le lampadine che a 12 volt, quelle che vende la GBC con i fili attaccati, ce le presi. Sì, ho capito. Fatto una funzione, la devo preparare l'altra, ma io ne ho preso una, la resistenza, i colori sono, rosso, marrone, rosso, dorato, quella è, sì. E quella è, boh, adesso non ce l'ho presente io, quando rientro a casa te lo dico quando è quella, quanto è quella. Capito, per quelle LED. La devo guardare a casa, la devo misurare, ma comunque mi ricordo che è da 10 ohm. Aspetta, due fogli la metti, Massimiliano, solo sul positivo. La metto sul positivo e basta. Ma io non le ho mai messi, la verità. Ho sempre messo quella lampadinetta perché... Diciamo che ne ho preso una maturata, così almeno quando non si fulmina ce l'ho pronto. Allora io, per esempio, in questo baracchino c'era la lampadina sua originale, tanto dello Smith, che era, non so cosa vuol dire, buia. Ho preso e gli ho messo il LED qua. E va è ben illuminato. E anche l'altro ha azzeccato. Come li ho messi a dura? Oh, dura l'ho messa Massimiliano. No, bianca. Però le faccio un altro lavoretto. In mezzo a questo bianco adesso gliene metto un azzurro che fa due colori. Quella che quando lo schiacci diventa rossa e rimane azzurra normalmente. No, questo no. Rimane sempre acceso. No, le aggiungo a fianco la lampadina a LED. Le metto un altro LED piccolino, però glielo metto azzurro al posto di bianco ghiaccio. E fa due colori, ma tu mi fai che spettacolo. L'avevo fatto su un altro baracchino che era con la sponda arancione e gli avevo messo una lampadinetta sul violetto. Ma tu devi vedere il gioco di colore che faceva. Beh. Ma se non dà, per un attimo non sei uscito, è prodotto male. Ah, si è uscita con la modulatore bassa. Guarda, di nuovo te l'ha fatto. E adesso? Magari, non lo so, guarda a vedere già, magari lo stavo schiacciando bene. E magari picchetti che c'è un po' di polvere, gli metti un po' di spray. No, adesso non lo sta facendo più. L'ha fatto per due o tre volte. E dopo vado a casa, lo pulisco bene. E di nuovo l'ha fatto. Se non tiro il cavo, guarda a vedere. No, non passa giù lungo. Guarda a vedere, sicuramente adesso non sta andando, vero? No, che si è abbassato di nuovo Massimiliano. Si è abbassato. Sicuramente non fa contatto bene il PTT, magari c'è entrato un po' di polvere, li metti un po' di per contatti e fa. Positivo, adesso sta andando, vero? Allora sono 1,5, 3, 4 e mezzo, giusto, 3 batterie 1,5. con la resistenza, me la sono andata con più, ma porca paletta. Dobbo, aspetta un attimo che faccio una telefonata, se no mi lasciano tutto la sera sotto in macchina a me. Chi vi sei? Ma non mi sono fatto vedere, sono ancora fermo. Ma non capi di segnale, ti sei spostato allora? Facevo? Poco qua, ti sei spostato, perché non capi di segnale? Mi sono spostato sì, e mi sono andato un altro parcheggio. Ok. Sta andando bene, Massimiliano. Va bene adesso, no, non ti ho risposto perché c'era mio figlio che mi stava parlando, stavo rispondendo a lui. È positivo, va. Adesso appena arrivo a casa me lo pulisco bene. Ma quello microfono normale o amplificato? Questo non è mai accento. Ah, il cursore allora è sicuramente. Se si è consumata quella carbonella non ci ha fatto gli effetti. Da vedere, un po' di ecco mi sembra di accento. Ma poco a poco, Massimiliano, prova a alzarlo a vedere. Vado a vedere, come faccio. E adesso già si sente. Ma sicuramente o il cursore o il PTT, Massimiliano. Il cursore solitamente di quell'M300 si consuma va sempre la carbonella che c'ha, tipo su di si metteva con la mina della matita. Ce l'ha presa e si la schiava quella lì perché è lo stesso prodotto. Sì, c'era tutto il tempo era lampato, metto il salmone, l'ho trovato quel culo. Era, stavo cercando un'altra cosa, ho trovato questo M300 e l'ho buttato dietro una pentola, tutto. E vabbè, andiamo sempre bene con il microfono, quando funziona va benissimo. Non bene, è un bel microfono, va. Ma guarda che io ne ho un altro che a livello di questo, eppure non è un M300. Cosa? Io ne ho un altro che a livello di questo, eppure non è un M300. Adesso te lo faccio ascoltare. Un GM1000. No, è un ala F22. Ascolta. Guarda già. Ma che paragone. Cosa? Che paragone? La M300 è molto meglio per me, poi non lo so se per te l'orecchio tuo è uguale. No, è molto meglio la M300 la simiglia, senza ombra di dubbio. È positivo. Datemi un attimo di bianco che mi sto avvicinando a caricare la roba in macchina. Sentiamo subito. Sì, anche perché la radio è scorta, che per quella è più pulita quella della M300, non è di niente. Gianni! Dimmi! Cioè se domani riesci ti dà il come si chiama? Arturo, quel computer, lo prendi, poi se quando stai rientrando mi fa uno squillo e ti fermi su via Sulcis. Se capita sì, perché domani c'è un po' di roba da fare, adesso vediamo, devo uscire a prendere l'acqua che ne so uscito oggi. E poi devo fare il commissario, devo stare a San Francesco, devo fare un po' di roba, vabbè se lo sento non c'è problema. E ti viene bene, ci mancherebbe, visto che sei domani mi trovo a prendere un caffè, tanto sto facendo questa cosa qua, esce il biglietto, se riesco, vabbè se va bene, sì, ma questo va bene, adesso lo trovare là. Sto cazzo di cose qua, mamma mia, che giramento di palle, va. Dai, la presenza con il coso porta salvato l'ho regalato, va. Aiaia. L'ho regalato? Saldatore, l'ho regalato. Perché? Dimmelo a me. Ma tu, ascolta, qualche trasformatore da quel computer, non lo puoi buscare. Quale computer? Quelli che ti danno la demolire. Ma che cosa? Un trasformatore, per trasformare la corrente. Ma lo sai che c'ha il trasformatore il computer? Quello lì ti serve. Che serve a me? Che serve? Sì, serve a me perché mi faccio una piccola stazioncina col portatilino e con l'antenna magnetica. Me la metto in cucina perché quando per dire Liliana deve dormire dopo pranzo, io se vuole ascoltare che c'è una volta che mi interessa così almeno continuo a ascoltare e magari entro anche, mentre invece se devo spegnere mi giro anche le scatole perché magari ho iniziato un discorso mi tocca assicurarla che se no disturbo. Allora se mi interessa c'è un elettatore, la diciamo questo. Ehi, ma mi interessa di quelli computer, mi devi me lo dici. Dica, lo so fare, non lo so fare, già, anche magari, non lo so, dovresti chiedere a Pomponio. Le modifiche da fare ci sono, bisogna prendere due fili, però bisogna sapere quali sono gli acquisti che ci sono. Sto facendo il computer, quindi cosa c'è? Secondo cosa c'è il prodotto?